Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Ritratto di Virginia Oldoini, contessa di Castiglione. Si dice a Firenze che quando aveva 12 anni la gente si assiepasse sui lungarni per vederla, tanto era bella. Virginia era figlia del marchese Oldoini di La Spezia e di Luisa Lamporecchi, fiorentina, e a Firenze nacque nel marzo dell'837, anche se più tardi, mentendo, avrebbe scritto di essere nata nell'843. Le piaceva essere ammirata, amata, e così anche dopo il matrimonio con il piemontese conte Francesco Verasis Asinari di Castiglione Tinella, lei, Virginia, divenuta contessa di Castiglione, continuò a far strage di cuore. Cavour, che di Francesco era cugino, capì che era intelligente, oltre che bella, e la spedì alla corte imperiale di Parigi. Lo invitata, scrisse, a civettare se le riesce a sedurre l'imperatore. Ci fu così la famosa mezz'ora d'amore a Compiègne e l'odio di un'altra bellissima, l'imperatrice Eugenia. Dopo l'armistizio di Villafranca, Eugenia riuscì a farla espellere. Lei tornò a Parigi qualche tempo dopo, ma senza lo stesso successo. Morì nel 1899 e fu sepolta al Père Lachaise. La polizia aveva già distrutto le lettere di tanti amanti potenti. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore.